A portata di click. Buongiorno a tutti, da Elia e Gustavo. Buon salve anche da parte mia. Beh, Buon salve. buon Giorgio è meglio. Vabbè, benvenuti a Click Art. Da oggi in poi non avrete mai più problemi con la storia dell'arte, grazie a questo bellissimo podcast. Bellissimo. Come fai a dire che è bellissimo? Qual è il tuo concetto di bello? Ma credo Kalos Kagatos. Beh, ora non esageriamo, andiamoci piano con le parole. Ma no, Kalos Kagatos è greco, significa bello e buono. Ed è un concetto che i greci usavano per indicare la bellezza totale, l'euritmia complessiva. Euritmia, l'impressione di armonicità che procura un'opera d'arte che viene espressa per mezzo di forme statiche, equilibrio e semplicità espressiva. Sì, mi sono ricordato tutta la definizione e senza sbagliare! Bravo, giusto. Comunque i filosofi greci però non furono sempre d'accordo nel dare una definizione al concetto di bellezza. Platone, ad esempio, diceva che la nostra realtà non è che un riflesso del mondo delle idee e che la bellezza oggettiva fosse da ricercare nelle armonie matematiche. Già, anche se io non ci vedo qualcosa di bello in una delle equazioni di secondo grado. Non dimenticare però che voleva bandire l'arte dalle scuole, in quanto copia delle copie della vera bellezza. Ti piacerebbe non dover più studiare storia dell'arte, eh? Beh, direi di sì. Poi, se non ricordo male, Socrate, che era brutto come te, credeva che la bellezza fosse quella interiore. Sì, esatto, precisamente la divideva in tre parti. Quella ideale, che rappresenta la natura attraverso il montaggio di più parti. Quella spirituale, che si riflette all'esterno attraverso gli occhi. Oh, lo specchio dell'anima. Attento però che se lo rompi sono 7 anni di sfiga. Sì, va bene, ci staremo tutti attenti. E infine la terza, quella utile, funzionale allo scopo. Porcellino! Io mi rifiuto di parlare con te. Disse il cestino all'immondizia. Vabbè, comunque i greci erano convinti che gli dèi avessero dato al mondo un ordine mediante criteri matematici, separandolo così dal caos primordiale. Beh, d'altronde caos e matematica possono un po' essere considerate aporie. A poche? Aporie, ossia contraddizioni insanabili. Ah, un po' come tu e la puntualità. Tra l'altro, un mese che mi devi 15 euro. Ma ti pare il momento, ti ho detto che te li darò. Comunque, esistevano tre aporie legate all'arte. La prima era tra bellezza e percezione sensibile, perciò la bellezza assume un significato diverso e più profondo rispetto alla semplice apparenza. Certo, cambia discorso. Comunque, la seconda era quella della visione e suono, giusto? Il concetto di calone era riferito esclusivamente alla vista. E la terza era la distanza e la vicinanza. Eh già, le opere vanno osservate dalla giusta distanza. Un po' come le automobili. Beh, Cosa? una Ferrari che schizza a 230 km orari è fantastica da osservare. Ma se ti trovi a 2 metri di distanza dal suo cofano, potrebbe non essere così bella. Idiota! Comunque una Ferrari non è comparabile ad un'opera d'arte ellenica, anche perché è esagerata come prezzo, come velocità. Che cosa c'entra? Beh. I greci avevano scolpito sul tempio dell'oracolo di Apollo a Delfi quattro frasi che riassumevano un po' la cultura greca, e queste massime erano: il più giusto è il più bello, osserva il Di limite, velocità? no, in generale. E le altre due erano: odia la ibris, ossia la tracotanza, la vanagloria, la vanità, e nulla in eccesso. Ah, di velocità! Adesso ti uccido. Dai, calmo, comunque è arrivato il momento di giocare. Il sondaggio di oggi è: quale concetto artistico preferite? Apollineo o dionisiaco? Personalmente ritengo che sia meglio il dionisiaco. Il lato oscuro dell'arte suscita passioni e dà una notevole importanza alla musica. Io invece tendo più verso l'Apollineo, che mira a creare una bellezza armonica ma visibile e che si basa molto sulle arti visive, che rappresentano un'idea e richiedono contemplazione. E voi cosa preferite, cari ascoltatori? Per farci pervenire la vostra risposta o anche solo per mettervi in contatto con noi, inviate una mail a gu.eli-basso-clickart@yahoo.it. Mi raccomando. Ho inviato un SMS al numero in sovraimpressione. Sovraimpressione. Cosa stai O dicendo? inviateci un gufo, una strilettera, un RNA messaggero, un messaggio in codice in lineare B, Direi che un possiamo tubo far partire la laser sigla. o un pappagallo, un raggio di fotoni, un UFO, Ok, ciao a una tutti, alla caramella, prossima! un pterodattilo. Card. L'art a portata di click.